Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, siamo alla penultima puntata di questo 2020 e oggi è nuovamente con noi al telefono la maratoneta azzurra Giovanna Epiz. Ciao Giovanna. Ciao, buongiorno. Allora, fresca vincitrice del campionato italiano di maratona andato in scena domenica scorsa a Reggio Emilia, cosa si prova a vincere una maratona, soprattutto in un anno come questo, Giovanna? È emozionante, non avevo mai vinto una maratona e non ero neanche mai salita sul podio, quindi bello, e poi correre in Italia una maratona è sempre fantastico, ci sono delle emozioni, il pubblico, sebbene era limitato questa volta, è bello. Sì, perché era una gara particolare, no? Diciamolo, insomma, c'era un po' di non era la 25esima edizione della maratona di Reggio Emilia, che sarà posticipata al 2021, ma era una maratona, diciamo, costruita ad hoc per il campionato italiano, praticamente. Esatto, sì, siamo partiti, che eravamo, mi sembra, 130, e c'erano dei minimi di partecipazione sia per le donne che per gli uomini, e era solo valida per il campionato italiano, insomma, anche se poi c'erano degli stranieri che concorrevano fuori classifica, però. Sì. E che gara è stata la tua? È stata una gara tutta in rimonta, perché sono partita e sapevo che c'era questa atleta svedese molto forte, perché ha di personale 1:15 in meno del mio sulla mezza. Sì. E comunque sapevo che dovevo giocarmela con lei, però avevo anche tanti punti interrogativi sulla mia condizione. E quindi sono partita un po' più cauta, e poi lei ha preso subito quel gap di 15 secondi dal secondo al quarto chilometro, e io mi sono trovata tutta la gara poi a rincorrerla fino a prenderla più o meno al 28esimo chilometro, e da lì mi sono un attimo fermata, ho detto vabbè, sto un attimo qui, vedo un po' con lei come sta. Però già dopo 500-600 metri vedevo che il ritmo comunque era calato. E ho detto, io mi sento bene, ci provo. E ho fatto il mio ritmo e va bene. Infatti, anche guardando da fuori, la maratona perfetta. Insomma, la prima metà abbastanza tranquilla e poi insomma sei andata all'attacco. Sì, è stato comunque un... Poi anche riguardando i tempi così con calma, è stata una gara molto regolare, perché magari facevo sì dei chilometri più veloci, però poi mi assestavo un attimo sempre sul ritmo di 3:29-3:30, quindi non ho davvero niente da dire. Quando è che hai pensato proprio di farcela? Quando avevo ripreso la svedese e poi ho detto, cavolo, forse qua lei è un po' cotta, nel senso non ce la fa, però non c'è stato un momento, perché cioè, ho corso e non riuscivo tanto a pensare di vincere la gara o di fare un tempo, cioè proprio ascoltavo le mie sensazioni. E secondo me è stato quella l'arma vincente, perché ripensandoci poi ero come, tra virgolette, indemoniata. Volevo proprio correre bene. E quindi avevi ottime sensazioni? Rispondevano bene le gambe? Sì, proprio mi sentivo bene. Io dico, le giornate dove ti senti bene sono davvero 2-3 ogni 4 anni, 3. Ecco. Perché non è difficile comunque andare in gara e dove tutto quadra. Rispetto alla maratona di Rotterdam, dove avevo fatto il mio personale, lì non mi sentivo bene, non mi sentivo fluida. Non era una buona giornata. E lo senti subito. Sì. E quanti pianeti sono allineati allora? Quasi tutti. Sì, perché davvero, sì. Poi vabbè, ci sono tante variabili e è andato tutto bene, davvero. E sappiamo, insomma, a quanto sembra è stata anche la migliore prestazione femminile di sempre al campionato italiano, no, di maratona, 2:28:03. Quei 3-4 secondi disturbano un po', ma va bene così? No, guarda, va benissimo così, nel senso... poi vabbè, col senno di poi... È tutto facile, sì. Sì, è tutto facile, e davvero io correndo non mi ero accorta che stavo facendo 2:28 basso. Cioè, quando ho visto il cronometro, che avevo la macchina davanti che mi seguiva, io pensavo di essere tra il 2:28 alti e il 2:29 basso, quindi non mi ero accorta che ero sul borderline dei 27 e 28. Tutti mi dicono, se l'avessi saputo, no, c'è cioè, se nello sport infatti, non esiste, non è matematica. Ma tu controllavi il tuo orologio oppure vai proprio senza... La sensazione. Allora, la sensazione. No, io ogni chilometro lo prendo, e più che altro è una cosa mia che mi dà forza vedere che sto continuando a correre bene e forte. Mm. Mi aiuta tanto, cioè vedere che ogni chilometro magari c'è un cioè, ah cavolo, questo l'ho corso sotto i 3:30. Mm. Mi dava la forza per dire ok, sono giusta, sono perfetta, sono secondo i tempi che devo passare. Però poi ovviamente sono sempre le sensazioni quelle che vai a cercare. E un po' di crisi? Guarda, crisi, ero bella lucida fino al 35, cioè riuscivo a capire, a fare i conti, e poi... Perché mi passi le tabelline, giustamente. Sì, no, perché poi vabbè, chi lo conosce, Giorgio Rondelli, comincia a darti una serie di numeri che devi capire come sommare, moltiplicare, e quindi... Quando vedi che non riesci più a fare quei conti che ti dice lui, dice vabbè, forse sono un po' in crisi. Sì, sì, esatto, al 40° non riuscivo più a capire come ero, quindi... Diciamo gli ultimi 3-4 chilometri sono stati duri, dal 40° all'arrivo, però vabbè, ormai ci stava, appunto. Giorgio Rondelli, il tuo allenatore, cosa ti ha detto prima della gara e dopo la gara? Allora, prima della gara lui è più agitato di me, quindi nel senso, niente, sapevamo già in base agli allenamenti cosa potevo fare, lui forse più di me, come sempre. E dopo la gara niente, ero felicissimo, cioè ci siamo abbracciati e è stata una gioia. Poi Giorgio comunque c'ha sempre qualcosa magari da ridire e domenica non poteva dire nulla, niente, no. E tu lo ringrazi sempre, qual è stato il valore aggiunto di Giorgio Rondelli? Tanto dal punto di vista, cioè mi ha cambiato tanto dal punto di vista mentale. Non ero l'atleta che sono adesso, cioè adesso sono convinta dei miei mezzi e di quello che posso fare. Ovviamente gli allenamenti hanno una parte importante in questo, perché sono cambiati rispetto a 3 anni fa, non c'è niente a dire. Però a livello mentale io una volta ero molto più insicura, molto più temevo le avversarie, e adesso invece, cioè, quando entro in gara comunque temo me stessa, nel senso, quello che io mi dicevo anche domenica scorsa era: oggi ho solo paura che le gambe non mi rispondano, punto. Ok, quindi ti ha dato molta più fiducia in te stessa. Sì, sì, sì, e secondo me è un po' la chiave il fatto di provare e di dire vabbè, provo, e se poi comunque non va, però nel senso partire almeno convinta. Tra l'altro l'altro giorno al telefono mi hai detto ora posso dire di essere una maratoneta. Tu di maratone hai già fatto un po', insomma. Sì, no, lo dico perché è la maratona dove mi sono sentita meglio anche nel post, nel senso sono arrivata e mi sembrava di aver finito una gara, non una maratona, cioè di solito la maratona comunque la vivi con un po' più tensione di una gara normale, perché è lunga e non sai mai cosa ti succede. Però questa gara, cioè questa maratona qui, non ero così tesa, abbastanza tranquilla, e l'ho vissuta anche quando vedevo il cronometro, così, cioè al 35° che ero a 2 ore qualcosa, e ho detto 2 ore, ok, dai, adesso comincia il bello. E quindi sì, sono, forse adesso appunto posso dire sono una maratoneta, ecco. Abbiamo detto Giovanna che era appunto, è stata una maratona particolare, vabbè, poi io appunto ho partecipato, poi non è andata tanto bene, però quello che mi è mancato di più è soprattutto il pubblico. Tu hai avuto modo, cioè ti è mancato oppure non ci pensavi e non ci hai fatto caso a questa cosa? Allora, mi è mancato perché comunque il pubblico in una maratona c'è molto di più, però comunque avevo i punti, c'erano dei punti nel percorso dove avevo varie persone che mi facevano il tifo, quindi essendo una gara anche a giri è stato bello, perché ogni giro pensavo ok, adesso fra un chilometro ritrovo Giorgio, fra un chilometro c'è altre persone che mi fanno il tifo, quindi quelle 10 persone che erano sparse attorno, cioè, lungo il percorso, mi hanno dato la forza, insomma, per andare avanti. Ah, le divise tatticamente proprio con lungo. No, scherzo. No. Giovanna, noi ci siamo sentiti qui a Personal Best prima della tua ottima prestazione al mondiale di mezza maratona in Polonia, no? Il 17 ottobre, 1:11:14. il tuo personal best sulla mezza maratona e prima delle italiane. È scattata lì la voglia di correre una nuova maratona e cancellare quel funesto ricordo della maratona di Doha? La verità, dopo i mondiali non ci pensavo proprio alla maratona, ormai mi ero un po' rassegnata, infatti ho fatto una decina di giorni di semi-stop, ho corso davvero poco. Poi Giorgio continuava a dirmi: guarda che organizzano la maratona a Reggio Emilia. Io non ci credevo perché ero ho detto figuriamoci se comunque con tutto questo clima organizzano una maratona. Invece sono stati spettacolari gli organizzatori e al primo di novembre ho iniziato la mia preparazione, che era la più corta che abbia mai fatto. Infatti, pochissime settimane. Sono state 4 settimane e mezzo di allenamenti duri, però sono servite, a volte non servono neanche quei 2 o 3 mesi classici, ovviamente se c'è alle spalle un buon allenamento e riesce a gestire appunto tra una gara e l'altra, perché alle volte comunque il riposo serve, è più degli allenamenti che fai. Hai fatto qualche allenamento particolare? Diciamo che già da prima dei mondiali abbiamo inserito degli allenamenti che sono sempre con dei cambi di ritmo, quindi questi ultimi 3 mesi mi sono serviti tanto, perché sia dal punto di vista ovviamente muscolare, ma anche dal punto di vista nervoso, per cambiare sempre il ritmo in qualsiasi cosa io faccio, dalle ripetute al lungo dico 30 km al medio, metterci sempre delle variazioni in mezzo mi ha aiutato tanto, e anche in gara mentalmente arrivi più pronto. Mm-mm. Anche quando hai raggiunto la svedese, insomma, a quel punto. Diciamo. Sì, sì, perché poi se pensiamo comunque alla gara non è mai lineare, cioè, hai sempre dei momenti dove c'è lo scatto e devi star sotto, comunque così. Sì, e poi era anche comunque piena di curve, era continuo cambio di ritmo, no? Sì, c'erano un po' di curve, soprattutto col giro di boa, che c'era un pezzo dove proprio c'era un giro di boa che dava un po' fastidio, però io il percorso l'ho trovato abbastanza filante, venivo dal mondiale di Gdynia dove era davvero, era tosto perché era comunque a sali scendi, e a me sinceramente è piaciuto, poi le gare a giri ho scoperto che mi piacciono molto, quindi... Benvenga, insomma. E in chiusura, Giovanna, che anno è stato questo 2020 e come sei riuscita a rimanere concentrata, insomma, nonostante tutto? Allora, è stato un anno dopo, diciamo, il lockdown, cioè durante il lockdown, dove ero molto demoralizzata per lo spostamento delle Olimpiadi. E invece col senno di poi dico, sono contenta che le Olimpiadi siano il prossimo anno, perché cioè, sono davvero pronta adesso. Forse prima avevo un po' di timore e adesso invece no, sono pronta e vorrei che fossero fra 2 mesi perché... Perché ora sei una maratoneta. Non vedo l'ora. Perché ora sono una maratoneta, sì. E invece ora che farai? In questi giorni, in queste settimane, ora, ti godi un po' il Natale? Ora, sì, mi godo un po' di riposo, diciamo, e alterno un giorno di corsa e un giorno di riposo, e poi a fine settimana programmeremo con Giorgio i prossimi mesi, diciamo che adesso ci sta un po' di un po' di relax, di calma, di calma, ci sta. Goditelo allora, grazie mille a Giovanna Epis e buon Natale. Grazie altrettanto, buona domenica. Buon Natale. Allora, noi però non ci fermiamo qui, perché al telefono con noi il campione italiano di maratona, Giovanni Grano. Ciao Giovanni. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Sei ancora carico? Io sono ancora un po', sì, ancora no, devo digerire un po' tutta l'emozione, tutta l'adrenalina di domenica. Ancora faccio un po' di difficoltà a prendere sonno la notte. Sì, sei frastornato. Sì, viene però sterilizzando un po' quello che è successo, mi ci vorrà ancora qualche giorno. Dai, bello, insomma. Dai. Allora, come hai sentito, abbiamo appena salutato Giovanna Epis e siamo quindi, insomma, curiosi di sentire anche il tuo di racconto della gara maschile in quel di Reggio Emilia. Che gara è stata la tua? Innanzitutto è stata una gara che aspettavo da davvero un sacco di tempo, quindi ero davvero in fibrillazione per gareggiare, perché non correvo sinceramente da febbraio. L'ultima gara che si è corsa in Italia sono stati i campionati italiani di mezza a Verona. Sì, esatto, a Verona. quindi penso che non solo io, tutti quanti avevamo un po' tantissima voglia di gareggiare, di correre la maratona. E quindi la stavi preparando? Sì, in verità ho preparato diverse maratone quest'anno, perché il mio piano inizialmente per l'autunno era di correre ad Amsterdam, che era a ottobre, quindi sì, ho iniziato ad allenarmi già dall'estate, fine estate, però purtroppo è stata cancellata la maratona e quindi ho dovuto resettare un po' e rischedulare i miei impegni per correre a dicembre. È stata una preparazione un po' lunga, un po' un tira e molla, però alla fine per come è andata direi che è andata bene. A metà gara te ne sei andato, abbiamo visto, insomma, ha fatto anche un po' gara solitaria, quindi insomma, ne avevi? Sì, io mi sentivo bene, mi sentivo in condizione. Ovviamente quando corri un campionato italiano il primo obiettivo è quello di cercare di vincere il titolo. Solo che mi sentivo bene in condizione, ero fiducioso di quello che avevo fatto in allenamento, quindi ho voluto provare anche, diciamo, a avere un buon riscontro cronometrico oltre che provare a vincere. E ho osato un pochino, è stato un po' rischioso andare via dalla mezza, però alla fine ha pagato, perché sono riuscito anche a correre un buon tempo, insomma. Sei soddisfatto del tuo tempo? Beh, sì, assolutamente. Io ho migliorato un minuto e mezzo dal primo anno personale e comunque in condizioni non semplici, perché dicevo, ho corso metà da solo e mancava un po' la spinta che ti dà il pubblico. E quindi totalmente soddisfatto anche del tempo. Infatti abbiamo visto il tuo arrivo, no? Non è stato, dobbiamo dire, proprio un arrivo di quelli che ci si aspetta, no? È passato il traguardo un po' nel silenzio, c'erano poche persone. Mancava forse questo, no, in questa gara? Assolutamente sì. Ovviamente quando c'è la maratona è bella perché è uno sport dove c'è tanta spinta e tanto calore dal pubblico, e correre un po' così è un po', tra virgolette, un po' alienante, perché sei tu da solo, e poi si correva comunque nella zona industriale di Reggio, non è, diciamo, il più fantastico degli scenari. Era un circuito poi di quattro giri, sempre uguale. A te è piaciuto il circuito oppure preferisci un giro unico? Beh, dal punto di vista puramente tecnico, il circuito era sicuramente favorevole per le performance, era sinceramente pianeggiante, a parte un piccolo ponte, Cavalcavia la maratona c'è sempre. Quindi dal punto di vista tecnico non era comunque favorevole alle performance, però se devo essere onesto preferisco più i classici circuiti di maratona cittadina, dove c'è un giro grande e via. Giovanni, hai vinto il campionato italiano con una buona prestazione, sono 2:14, quindi anche cronometrica. Dobbiamo anche dire che tu non sei un professionista, però. No, esatto, ho sempre cercato di coniugare dapprima lo studio universitario con l'atletica, e poi adesso dopo gli studi ho lavorato in Italia in un'azienda privata per un annetto, e poi mi sono trasferito a Zurigo dove ho iniziato il dottorato di ricerca in informatica, e quindi essenzialmente da circa 4 anni faccio questo e lavoro a tempo pieno in ufficio. Sei un cervello in fuga di quelli che corrono forte, però. Beh sì, definizione di cervello in fuga, sì, credo di rientrare più o meno. E quindi tu non fai doppi allenamenti, cioè fai un allenamento al giorno? Sì, esatto. Io quando studiavo all'università riuscivo bene o male a fare doppio allenamento. Poi lavorando ho deciso di non farlo. In realtà sarà più una scelta mia, perché volendo, se riesci a organizzarti in maniera precisa, forse potresti anche riuscire a farlo. Però alla fine diventa un po' difficile, perché non faresti altro che correre e lavorare, dando zero tempo al fisico di recuperare, poi anche zero tempo libero per fare nient'altro essenzialmente. Quindi la mia scelta è stata quella di cercare di massimizzare un singolo allenamento giornaliero e cercare di ridurre un po' i volumi e tenere la qualità alta, e alla fine sta pagando questa scelta, insomma. Ma anche dopo i risultati di quest'anno non ti stuzzica l'idea di dedicare un'ora in più all'allenamento, magari? No, rimani. Penso che, insomma, questa forma sta funzionando, di avere ancora del margine per correre ancora più forte, quindi non vedo perché cercare di rischiare magari qualcosa di nuovo. Anche perché la domenica, magari, o sabato domenica fai il lungo e quindi poi lavori di qualità in settimana. No, esattamente, mi organizzo più o meno così. Io di solito la domenica c'è l'allenamento un po' più lungo, un po' più impegnativo, e in settimana poi di solito metà settimana c'è un altro lavoro, un lavoro duro, e sono fortunato un po' che sono flessibile con gli orari di lavoro, quindi magari se una mattina voglio andare in ufficio un pochino più tardi perché è un allenamento più impegnativo, posso farlo e poi recupero, insomma, lavorando più in serata, e quindi questa flessibilità un po' mi aiuta da questo punto di vista, sicuramente. Quest'anno è corso due gare, possiamo dire, la mezza di Verona a febbraio, appunto, dicevi prima, e la maratona al campionato italiano di domenica scorsa, e in entrambi i casi hai fatto il tuo personale. Che anno è stato per te questo 2020, sia dal punto di vista sportivo che personale? Insomma, è stato un anno particolare un po' per tutti. Beh, sì, particolare per tutti. Io a febbraio, come ti dicevo, ho corso la mezza, correndo discretamente, ho corso il personale anche lì. Però non era il mio appuntamento principale, ovviamente. Subito dopo la mezza sono partito per il Kenya per allenarmi. Quanto hai fatto? Per gareggiare, volevo andare, sono da Iten, per il piano era stare 3 settimane lì, per poi tornare e correre la maratona di Amburgo. Quello era il mio principale obiettivo della stagione. E sono volato in Kenya e dopo 10 giorni sono dovuto scappare indietro perché chiedevano i confini. E quindi, insomma, tutto il piano è andato un po'... Era la prima volta che andavi in Kenya? No, sono andato già, è la terza volta, sono stato a settembre scorso, e la prima volta sono stato una decina di anni fa, e poi ho avuto un break abbastanza lungo da questa esperienza in Kenya. Da quanti anni è che corri, Giovanni? Io ho iniziato da ragazzino, ho iniziato all'età di 13-14 anni, abbastanza presto, su un po' l'esempio del mio papà. Il mio papà è un corridore amatore, poi io vengo dal Molise, che ha una tradizione di atletica importante, insomma. Ho iniziato a correre circondato da un po' da campioni europei, e ovunque ho iniziato a correre con allenarmi con Andrea Lalli, tre volte il campionato europeo. Sì. Il mio primo giorno di corsa, 13 anni, vado al campo sportivo lì al mio paese a Boiano e trovo Andrea Lalli che si allena, quindi... Stimolante, insomma, sono stato circondato da campioni veri, e questo mi ha dato anche... aiutato. Mi ha dato una bella impostazione per gli anni successivi. E tu sei molisano, appunto, dicevi, a Natale dove sarai? Io domani torno in Molise, quindi passerò le vacanze con la mia famiglia. Oggi ho dovuto rifare il tampone anche oggi perché è richiesto personale dall'estero, e fortunatamente posso tornare a casa e spendere un po' di tempo in tranquillità a casa. Nel giro di una settimana l'hai fatto due volte a Reggio Emilia. Mi è toccato tamponarmi diverse volte. Che situazione c'è in Svizzera in questo momento? In Svizzera è un po'... io a marzo sono stato qui sinceramente quando c'è il momento un po' più duro del lockdown in Italia. E qui non c'è mai stato un vero lockdown, nonostante i numeri non siano stati affatto bassi. Qui si predilige un po' la linea, ok, l'economia e non chiudiamo tutto, e i numeri sono comunque preoccupanti. Abbiamo avuto qui situazione peggiore della Lombardia. La Svizzera più o meno come popolazione è paragonabile a quella della Lombardia, sono circa 8 milioni di abitanti e abbiamo toccato picchi di 10.000 contagi al giorno. Solo che non c'è mai stato un vero lockdown e si tende un po' a cercare di non chiudere tutto. E in chiusura invece, insomma, sperando che le cose migliorino da tutti i punti di vista, cosa ti aspetti per il 2021, insomma, dal punto di vista sportivo, diciamo? Sportivamente la primavera ancora la vedo un po', grigia. Le maratone più grosse, diciamo, sappiamo già che le hanno spostate tutte in autunno, per cui, insomma. Esattamente, la maggior parte delle gare sono già spostate, e io credo che qualcosa si riuscirà a organizzare. Sento già un po' di rumors che riguardo qualche gara solo elite, tipo quella di Reggio Emilia, un po' in giro per l'Europa. Quindi il piano sarà cercare di correre, di entrare in una di queste gare, di cercare comunque di correre un'altra maratona in primavera, sperando che poi l'autunno ci dia un po' indietro la situazione normale di tutte le gare che conosciamo, insomma. Ci faccia sfogare un po', insomma, almeno per chi corre. Per chi corre come noi. Allora, grazie mille a Giovanni Grano e in bocca al lupo per tutto, allora. Grazie al lupo, grazie mille a voi. E grazie a Paolo Colleoni, regia. Nel frattempo continuate a correre, noi ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata e buon Natale. Buon Natale. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.